Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Nessuno voleva crederlo, nessuno voleva accettare l'idea che una madre avesse potuto uccidere un bambino di 8 anni e farlo in quel modo. Nessuno voleva crederlo al punto da ritenere più accettabili persino gli scenari peggiori legati ai sospetti di abusi sul piccolo Loris. L'orrore di un delitto così atroce era più forte di quello di un bambino di 8 anni in mano agli orchi. E invece, secondo la procura, le cose sarebbero andate così. Loris sarebbe morto attorno alle 9:30 di quel tragico sabato di fine novembre, e a quell'ora Loris era in casa con sua mamma, con Veronica. È questo il punto fondamentale di questa inchiesta, il racconto delle telecamere, di Loris che rientra a casa alle 8:30 mentre sua madre e il fratellino vanno via in macchina, di Veronica che lo raggiunge poco prima delle 9, della donna che esce nuovamente di casa 36 minuti dopo. Certo, mi accorgo solo ora della musica in sottofondo, atta ad aumentare il pathos della notizia, da questo servizio preso da un telegiornale Mediaset. Ieri l'avevo soltanto accennato come ipotesi possibile, oggi ci sono dei margini comunque di attenzione più dettagliati, perché la procura nella notte ha fermato la madre di Loris Stival, la Veronica Panarello, in questo momento è lì, non parla, non dice, ma naturalmente gli indizi di lei sono stati tali da far pensare ai magistrati che era il caso di fermarla. Ora, non voglio questa mattina entrare in merito a questo caso, non voglio fare le anticipazioni mediatiche rispetto a quelle che saranno le conclusioni della procura e il diritto comunque di ogni persona di difendersi in tutti i gradi processuali. Però voglio riprendere il punto del discorso che ho fatto ieri. Io, tra i motivi che rendevano precaria la tregua natalizia che normalmente ci si concede sempre, c'era anche questo. Ancora una volta dobbiamo entrare nell'idea che le madri possano uccidere i figli. Avete sentito il pathos del giornalista che faceva questo servizio? Nessuno voleva crederci, la notizia sembrava incredibile. Perché sembra incredibile che una madre possa uccidere il figlio? Perché sembra più credibile, più possibile che possa farlo uno sconosciuto, un maniaco, un depravato, una persona per futili motivi? Cosa dovrebbe fermare in alcune circostanze patologiche una donna che comunque ha dato la vita a un figlio, il fatto che possa anche ucciderlo? Perché siamo così legati ad alcune circostanze epiche per cui la paternità e la maternità e il vincolo di sangue ci renda quasi impossibilitati a compiere azioni scellerate nei confronti appunto dei nostri consanguinei. Conoscete scelleratezze più profonde, più crudeli, più immotivate, più ciniche che quelle che si consumano tra fratelli, tra genitori e figli, per motivi futili o per motivi di successione, o per soldi o per invidie o per un'infinità di altre cose? Perché ancora ci sembra così impossibile, tanto da preferire, come ha detto prima il collega, quasi era meglio che fosse stato un maniaco che avesse compiuto su lui atti di sopraffazione sessuale piuttosto che l'avesse ucciso la madre? Qualunque cosa viene considerata come preferibile rispetto al figlicidio. Io trovo altrettanto atroce l'omicidio di un bambino da parte di qualsiasi essere umano. Se si consuma in famiglia non mi stupisce più di tanto, ma questo probabilmente è il mio punto di vista distorto. Voi come la pensate? 800240024, parliamo di figlicidi. Mercoledì 30 gennaio 2002, Montroz, frazione del comune di Cogne, Valle d'Aosta. Dice che evidentemente può essere avvenuta un'implosione del cervello, tanto perché i bambini a quell'età non hanno ancora il cranio ben saldato. Ma il medico del 118 non la pensa così. Questi soccorritori vedono tutto quel sangue e pensano che non sia un aneurisma. Ricordate il delitto di Cogne, quello che più rimane nell'immaginario nazionale, ma perché? Perché la mamma di Cogne, anche lei infanticida, condannata in tutti i gradi processuali, quindi a tutti gli effetti sta scontando una pena che ha commesso, era in quel momento celebrata la televisione come la povera mamma del bambino ucciso chissà da chi. Abbiamo tutti preferito credere all'implosione del cervello di un bambino, a delle circostanze paradossali, perché? Perché la mamma andava in televisione a celebrare la sua afflizione di madre del figlio ucciso, passò in tutti i salotti possibili e immaginabili, fu un'eroina del Costanzo Show, la seguimmo nella generazione del secondo figlio dopo il figlio ucciso, la seguimmo in tutte le fasi processuali, negli incidenti probatori fatti dal marito, dal padre, la famiglia si era stretta contro. Abbiamo seguito tutte le vicende processuali e non possiamo altro che dire, sì, era una mamma che ha ucciso il figlio. Vincenzo Mastronardi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Psichiatra, criminologo, titolare della cattedra di psicopatologia forense presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Roma La Sapienza, ha curato il Dizionario Criminale Italiano, edizioni Newton Compton, ha scritto un'infinità di libri, tra cui Madri che uccidono, edizioni Newton Compton. Un libro che dà l'idea che in realtà questo concetto che per cultura consideriamo così atroce, così impossibile, è qualcosa che accade. È un libro che parla da un punto di vista proprio di analisi psichiatrica sulle motivazioni profonde di oltre 300 madri da tutto il mondo, in un arco molto vasto di tempo, abbiano ucciso i loro figli. Professor Mastronardi, perché ci troviamo così sconcertati di fronte al fatto che una madre possa uccidere il figlio? Ci sembra un delitto che richiama ad aprirsi le viscere della terra, quando in realtà la narrativa, l'epica, la religione, la storia sacra è piena di genitori che uccidono i figli? Rispondo subito: perché urta il sentimento naturale, quale quello della maternalità, ovvero sia il senso di maternità. Nessuno penserebbe che proprio la madre che ha messo al mondo un figlio, la madre che ha generato un essere piccolissimo, indifeso, che attende soltanto protezione in ogni atto della sua vita, possa eventualmente compiere un gesto così. E in realtà ne ho visitate 15 donne ormai che hanno ucciso i figlioli. E qual era il tratto comune, professore? Cosa ha trovato come tratto comune identificabile? Come minimo comune multiplo, guardi, una domanda che mi fanno tutti e la risposta è sempre quella, ahimè: un senso di solitudine, come se queste donne fossero comunque lasciate a se stesse, fossero affidate a se stesse, per un verso o per l'altro non fossero capite in quelli che sono i loro piccoli grandi drammi. Ricordiamo che anche se per noi possono essere piccoli i drammi, per una singola persona possono essere eventualmente grandi, ma la cosa che dobbiamo considerare è che, indipendentemente da quella che può essere la malattia mentale percentuale comunque minima nei casi dei delitti in famiglia, che ricordiamo avvengono un giorno sì ed un giorno no, cioè abbiamo sempre, ogni anno si sono avuti intorno ai 170 casi, quindi un delitto ogni due giorni, 2 ore, 20 minuti e 41 secondi. Quindi lei mi sta dicendo proprio, professore, che della percentuale più alta dei casi sono persone, fra virgolette, normali, non malate mentali. Io le ho definite la follia mostruosa della normalità razionale, nel senso che non appartengono a quelle categorie, non possiamo incasellarle nelle categorie delle malattie mentali, tanto per essere chiari, il nostro DSM-5, il manuale dei disturbi mentali, quinta edizione. Perché il primo messaggio che mi è arrivato, professore, è: quando la mamma uccide il figlio è malata, va aiutata. No, non è malata, è una persona come le altre, perché tutti potenzialmente abbiamo la facoltà, la possibilità e l'istinto di uccidere altre persone. Fedele, buongiorno. Buongiorno, io chiamo perché questo delitto qua mi riporta un po' a quello che dicevo. È come il femminicidio, cioè io ammazzo mia moglie perché è mia moglie, io ammazzo la mia donna perché è la mia donna, io ammazzo mio figlio perché è mio figlio. Quindi potere di vita e di morte sui propri affetti. Sì, in questo caso può essere attivo. Ma lei chi l'ammazza? Scusi Fedele, a lei chi l'ammazzerebbe in teoria, se lei ha potere su tutto? Mia madre non ha poteva uccidere la sua madre. Probabilmente l'avrebbe fatto, credo. Le è venuta l'idea che sua madre poteva ucciderla? Come le è venuto in mente che sua madre avesse potuto ucciderla? Ma, no, certe volte un impulso dal nervoso che le ho fatto venire, come probabilmente lei alla sua, magari se fosse messo male gli avrebbe dato volentieri. Lei ha avuto mai l'istinto di uccidere i suoi figli? Ma io ho l'istinto di uccidere. No, io un sacco di volte, ce l'ho uno davanti in questo momento, mi guarda lì. Sì, sì, no, è chiaro, sì, no, ce l'hai quell'istinto che dura, come dicevo prima, dura 2 nanosecondi. Sì, poi non è che li ammazzi, ma li sbatteresti sul muro certe volte, ti viene in mente, però lasci perdere. Sì, ti viene in mente di attaccarli al muro, ma di attaccarli degli anni, però ti calmi, cioè in questo caso, secondo me, il problema è dato proprio dal fatto, io non andrei alla ricerca della solitudine e tutto quanto. È dato dalla ricerca di questa proprietà, formalità neanche il caso. Però vedi, vedi Fedele, se ci abbiamo qualcuno attorno vicino con cui dividere anche momenti di rabbia, di follia, e di follia rabbiosa, è meglio. Quando siamo totalmente, radicalmente, visceralmente soli, quei momenti cominciano a sopraffarci. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Il suo buongiorno punto di vista. Sì. Sì, secondo me dobbiamo forse abbandonare l'idea che il ruolo di genitore, quindi di padre o di madre, metta al sicuro queste persone, gli eventuali padri o madri, dalla possibilità di compiere efferatezze nei confronti dei figli. Nel senso che è la persona, è il contesto sociale, è la storia personale di ognuno che ci porta poi, è la capacità di pensare, di affrontare i problemi che ci porta poi ad agire o non agire. Hai ragione Andrea, perché genitore si diventa quando si pratica nel tempo con costanza. Essere genitore è un istante, non è che ci voglia tutta questa fatica a generare un figlio, a metterlo al mondo. Sì, certo, la gestazione, il parto sono momenti lunghi e difficili, ma diciamo il momento delle responsabilità significa nella tenuta nel tempo. Professor Mastronardi, dalle telefonate che ha sentito, ha visto, in realtà esiste una convinzione generale molto più razionale e molto più realistica, che il genitore non è un investito divino per cui viene quasi consacrato di un ruolo che gli permetterà di avere una rettitudine per tutto il corso della sua vita, altrimenti. Ma infatti è proprio l'ultima telefonata che va impreziosita oltremodo, nel senso che al primo posto noi abbiamo proprio quella che viene chiamata il life stressor events, cioè eventi stressanti quali abbandoni reali o amplificati, separazioni, perdita affettiva o immaturità della madre. L'ha avuto a 15 anni questa signora, il suo figlio. Non ce lo dimentichiamo. La bassa soglia di tolleranza allo stress, quello quante volte mi sono capitate diverse madri, me ne ricordo una appunto che mi diceva li guardo i miei figli, ma al solo pensiero di come farò a crescerli, io so già che non ce la farò. Ecco, era una signora che non si stimava abbastanza, era una signora che confessava ho desiderato diverse volte di ucciderli, ma non è il primo caso. Le pensi che ho avuto è un caso che porto in terra. Professore, fermo un attimo. Mi chiedono la linea per le informazioni del traffico. Melog, cronache meridiane. Palermo è ancora commossa, Palermo è ancora straziata, ferita dal dolore. Ha perso una figlia per il gesto folle di una madre che ancora non sa dire il perché. A distanza di 2 giorni, vicino al cassonetto dove Valentina Pilato ha abbandonato sua figlia, partorita da poco, ci sono messaggi, fiori, palloncini, tanti cittadini che lasciano un fiore. Ecco, ancora una volta, gesto di follia, non sa dire perché, una sorta di presa di coscienza che soltanto la follia, soltanto l'eccezione può creare qualcosa del genere. Io ricordo che, lo dico spesso, un collega del professor Mastronardi, che Vittorino Andreoli, altro grande criminologo, mi diceva, io ho conosciuto tantissimi criminali, ho parlato con tanti criminali, primo mi ha trovato una persona che avesse poi pentimento reale di quello che ha fatto, ma lui che aveva fatto comunque l'analisi dei ragazzi di Montecchia, di Crosara, di Pietro Masi, cioè erano ragazzi normali, non erano pazzi, nel loro sistema di vita uccidere il genitore per avere soldi in più era perfettamente normale. non erano dei pazzi criminali da curare, erano ragazzi normali che avevano passato la soglia di quell'atto epico di uccidere qualcuno. Io vedo soltanto uomini chiamano questa mattina, nessuna donna ha chiamato, cosa che non accade mai. Vi sentite sotto accusa? Nessun problema, posso anche parlare con i padri, mi piacerebbe avere un punto di vista di una donna che in questo momento, non voglio dire che sono sotto accusa, ma perlomeno tendo a togliere questa aura sacrale al concetto di madre. Madre è qualcuno che lo dimostra nel corso del tempo di saper essere madre, non è soltanto aver messo al mondo un figlio che ci assolve dal fatto di poi poterlo anche avere il desiderio di ucciderlo. Silvano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. La scelta di una giovane, di una ragazza che si trova incinta, no, è una scelta per la vita, cioè si rovina quando fa nascere un figlio, specialmente se la famiglia si rovina, diciamo ha una vita un po' più complicata, la rovina è ma si rovina la vita, cioè a 15, 16, 17 anni si rovina la vita, cioè, se la compromette notevolmente. Può esserci anche il punto di vantaggio che a 25 anni ha un figlio già cresciuto, può pensare sì. A sé. Ma i genitori dovrebbero portarla ad abortire, cioè l'aborto risolve molti problemi. Sì, ma può lo lasci decidere alla persona, però adesso. Sì, certamente, sì. Ma quando la religione, il contesto sociale, i genitori e tutti fanno pressione su una povera ragazza che non sa decidere cosa fare. Per questo abbiamo una legge che dà facoltà alla donna di prendere una decisione così delicata, così dolorosa, così faticosa, in maniera serena, perché così dovrebbe essere. Lei dice qualcosa che tutto sommato. Un figlio quando diventa improvvisamente qualcosa che non si sappia gestire è difficile da gestire. Che i genitori debbano costringere una ragazza o obbligarla a abortire è un passo oltre. C'è anche la chance che uno può scegliere se averlo o non averlo un figlio. Questo fa parte, diciamo, dei diritti di una persona. Ugo, buongiorno. Buongiorno, sì. Buongiorno. Senta, dunque, allora io stavo riflettendo che nessuno sta riflettendo sì. Sul bambino fradicio d'acqua, come se qualcuno avesse buttato su quel corpo un secchio d'acqua da vivo, naturalmente. Come lo sta riflettendo? In che senso lo sta riflettendo? No, perché hanno detto che il bambino era fradicio d'acqua. Allora, lei entra nel merito del. Questo caso non lo conosco, non possiamo fare noi adesso l'analisi degli indizi. Caso, non siamo parlando della mamma che ha ucciso il bambino. Sì. Allora, bisogna pensare che questa donna, molto probabilmente, lungi dall'essere un mostro, è un'isterica che a un certo punto, trovandosi a diverto col bimbo, l'ha spinto, quello è caduto, si è fatto l'ematoma. Lei sta facendo una sua ipotesi, però lo sa perché la interrompo, perché è quello che volevo evitare, è tipo i processi in televisione. Lasciamo che siano le persone che lo fanno per mestiere, io non lo so, non ho elementi e nemmeno lei a distanza può dire, è facile fare i piccoli detective parlando, ascoltando, guardando la televisione, ascoltando la radio. Ugo. Bisogna indagare delle. Sì, indagheranno, sanno le persone. Ugo ha parlato, allora Silvano ha parlato, chi altro c'è? Nessuno, c'è il professor Mastronardi. Allora, professor Mastronardi, ho stoppato in partenza il desiderio di sostituirsi agli inquirenti, che non è di questo caso che voglio parlare, ma voglio allargare, se possibile, la rosa, infatti, diciamo, delle riflessioni. Lei accennava prima, lo visitammo insieme, Pietro Maso, io e Andreoli, appunto, proprio l'ultima volta, io ero di ufficio per il presidente di sorveglianza e Andreoli era di parte e ci si rese conto appunto che all'epoca era perfettamente normale, si fa per dire tra virgolette, quella che definiamo la normalità e che tengo a sottolineare per la stragrande maggioranza, andiamo a ritrovarci appunto tra le persone che visitiamo responsabili in questi reati, c'è appunto quella che dicevamo, la bassa soglia di tolleranza allo stress. Lei pensi che ero rimasto in apnea quando mi ha interrotto prima e stavo raccontando di un'altra paziente che meno male curandola in tempi rapidi e abbastanza rapidi, 6 o 7 mesi di terapia, riuscimmo ad evitare qualcosa che mi confessò poi dopo. Lei era vaginista e frigida e veniva da me e appunto per questo grave problema, pur avendo avuto due figli, lui il primogenito lo maltrattò una volta col ferro da stiro sulla mano, lei pensi, e un'altra volta stava per strangolarlo, ma proprio lei racconta, l'ho visto cianotico. Diciamo che l'ambiente familiare domestico è pieno di strumenti atti ad offendere, a ferire, a torturare. Quello che diceva lei, quando il figlio dice ma io l'ammazzerei, sì, ma non lo fai, poi certo. Dopo i buoni lo sognano, i cattivi lo fanno, poi dopo, o come in mezzo al traffico quando usiamo dire l'ammazzerei a chi ci fa le famose corna, a un certo punto lì è il distinguo. Quando parliamo di figlio del cassonetto, poi dopo, lì a quel punto parliamo proprio di un non sviluppo di una della identità sessuale femminile. Mi spiego meglio, ogni maschietto o femminuccia man mano che cresce sviluppa il senso di identità. Bene, se a un certo punto, come è capitato per una extracomunitaria che è venuta in Italia con grandi aspirazioni, poi dopo è rimasta incinta, non aveva ancora sviluppato una identità femminile, era ancora alla ricerca di una sua identità. Quindi gli è capitata qualcosa che in quel momento non gestiva. Senta, sì, molti mi chiedono: se non ci si sente donna, come facciamo a fare in modo che la persona non ci appartiene di sentirsi madre? Se non ci si sente donna, non può sentirsi madre. Una cosa, questo, che molti mi stanno chiedendo. Esiste nel caso di un possibile figlicidio, infanticidio a parte di una madre, meglio figlicidio, esiste anche la possibilità che prima di essere ucciso questo ragazzino o ragazzina possa subire delle violenze a parte della madre, anche di tipo sessuale? Perché molti mi chiedono, hanno detto del bambino di Ragusa che era stato in qualche maniera molestato, ma se l'ha ucciso la madre, chi l'ha molestato? Ci sono stati casi, ce ne stiamo occupando con la collega Loredana Petrone qualche caso lo abbiamo avuto, ma quindi se l'orco fosse lei, diciamo, ecco, ma non è abituale amministrazione, di ordinaria amministrazione, sono casi abbastanza rari. Una cosa è certa, che sono bambini comunque che vengono sempre malmenati comunque, quindi in tutti i modi, dalla immersione forzata in acqua bollente all'alimentazione forzata col cucchiaino, illegarli ad una sedia. Non lo vediamo solo in quei casi in cui si è accesa la telecamera perché è avvenuto all'asilo, non so se ve lo ricordate. Sì, molte maestre d'asilo, succede spesso, certo. Legandoli, ma proprio alcune madri possono farlo, meno male rare, meno male non sono molte, però possono farlo, e quindi proprio quando si supera la soglia di tolleranza allo stress, quando non ce la fanno più, vanno curate. Ma a proposito della gravidanza, se interromperla o meno, ricordiamoci che c'è l'affidamento anche dopo il parto, e dopo il parto, questa è una notizia che dobbiamo dare, noi abbiamo la possibilità in qualunque ospedale di affidare il figlio in adozione. Non solo, ma abbiamo 2 settimane di tempo poi dopo affinché la madre possa ripensarci e riprendere il proprio figlio, purché in quelle 2 settimane l'affida comunque ad un parente e ad una donna. È che logicamente, professore, non è mai così immediata, lucida e circoscritta la percezione di un figlio che non si vuole o che si vorrebbe in qualche maniera eliminare. E poi c'è l'aspetto sociale, le famiglie dietro, che sono un grande anestetico rispetto ai propri desideri, le proprie pulsioni. Grazie per i chiarimenti che ci ha dato il professor Mastronardi, grazie a Valerio Rocchetti e a Fabrizio Intonti, a domani.